mente ben presente il vento che quando fa freddo imponente ma mai potrà arrivare a quel brivido speciale che è la scia di te. La perfezione è quello stato che non si raggiunge mai perché non è di te. Ma c'è un profumo che è perfezione sulla gente da Dio nel cielo. È l'essenzialità, il profumo che vuoi dare e dire che è naturalità e trasmettere qualcosa su di te. E quando Dio è con te basta solo il suo profumo per stordire con amore. Non c'è nulla che sia uguale, che descrive meglio te. Pura che quella che l'uomo dice non può essere, perché la presunzione procura l'illusione di essere liberi. La vera libertà è quella che fa sentire un uomo onesto e vivo che è capace di far bene ed esprimere l'amore sempre intorno a sé. È l'essenzialità, il profumo che vuoi dare e dire che è naturalità e trasmettere qualcosa su di te. E quando ti è con te basta solo il suo profumo per soffrire con amore. Non c'è nulla che sia uguale, che descrive meglio te. L'essenzialità è il profumo che vuoi dare e dire che è naturalità e trasmettere qualcosa su di te. E quando Dio è con te basta solo il suo profumo per stordire con amore. Non c'è nulla che sia uguale, che descrive meglio te.